My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Ufficialmente il via alla stagione delle sagre. È arrivata la bella stagione, finestra aperta, così proprio. Aspetta che ti chiami la signorina qui di fianco. Ci parlo io, vecchio, stasera. Tanto succederà, lo sai, è vero, con la buona. Secondo me ci tira tipo le mollette, quelle per tende la roba, no? Quelle rotte dentro lo studio. Quelle con la molla andata. Quelle difettose, esatto. Sì. E qualche calzino bucato, esatto. Sì. Che ci potrebbe anche tornare utile poi, tra le altre cose, voglio dire. Io ce ne ho di bucati spaiati, quindi... Esatto, almeno poi si rifà la coppia. Le 21.03 sulle frequenze di Controradio, questa cosa si chiama Ragnar Pfizer. Andiamo avanti fino alle 22.30. Stiamo aspettando sempre il mister, eh? Cioè, se manca anche stasera, lo mister... vado a prendere a casa in taxi. Mister Prandelli? Che aspetti, vecchio? Biga. Biga arriva con calma, arriva, vecchio. Lascialo stare. Okay. Qua non fare. C'è. Qua fretta non c'è. Insomma, tanto ci siamo noi, voglio dire. Dai, si parte, poi si sta a vedere. Allora, abbiamo risolto l'incognita di chi parte per primo. Parte Bubu. Per il resto, ragnarpfizer.blogspot.com, questo è il nostro sito. Se volete connettervi con noi via Facebook, tra poco apro il mio. E poi 0557399933. Buon ascolto. In the convoy, using different nines of alloys. Metal, money corded in his velcro. Another shell split his elbow. A good fellow named Jimmy Two Times. He took two nines, two dimes. Caught the guard plotting at the shoe shine. Yeah, he just got word about his man James Dean from Queens. Hit a bank and shot a guard in the spleen. With Bill Blast, he made a dash, fast to cash. Ran two blocks, pulled off the ski mask. Then he started flipping, forcing in the fat whipping. People started talking, Popo started sniffing. Plus, he never hit James Dean with the cream. So James put out a hit to catch him on the scene. The police got a tip from this girl he used to run with, sell guns with, trees and Mac clips. Yeah, she was nice, drove a 5-0 twice on a cell all night with more hoes than Heidi Fleiss. And a girl drove a black Infinity, moving keys to Kennedy. Different name every day, fake identity. They made a deal and cop a plea, turned state. So at the house, the police wait, but James caught him in his 850. That's how the streets be moving shifty. Found Bill Link and he slipped and paid quickly. Different day, but the same song. Life goes on, so watch the street, kid. This is a put on. Yeah, watch that. That's how it goes down. Niggas be out there trying to shit. You understand? It's a pussy, niggas be like, that's how it goes down. Motherfucker, down. I seen Will on the corner flat, pushing Park Slope, shipping 2 pounds of coke, with 20 G's in his bear coat, chrome Nina, rolling with this bitch snake between her, undercover cleaner, pack a sweet sweeper, 5 years for doing fed time for extortion, in the jail up in Boston, for major Juve lost, hit safes quickly, can hear black Jamie Summers, pick the right numbers, and have mad runners, a hardcore little Kim, Queen B bitch who never snitched, played the game and never rode the bitch, Will swear up and down this bitch to kill our Will for our family. No fantasy, a James calamity. Time for the score, for Hamilton Marine Park. Gotta get there before it get dark. We arrive, she load the black 45, concealed it by the waistline, and now's the time. She jumped out the car, in front was a Hummer with two newcomers I never seen before. I approached, told Joey, who's those guys? Looking wise, have my black ass surprised. Yeah, yeah, yeah, it's a setup. Where's the dope? Where's the loot? Give it to me, and don't get cute. Katrina pulled the weapon, shot Joey. The other two guys pulled out and aimed, explained. Yo, she hired the two kids with Joey. He didn't know because she paid more dough for him. Will screamed, you bitch. Sorry, she said. Then bow, Will got lit. That's how it goes down, down, under, under. They drove off quickly in the black Hummer. Never trust, no matter what the dance or song, because it could be a put on. Work all night and a drink of rum. Stack banana till the morning comes. Stack banana. I'm on my way to the airport now. Yeah, well, your boy Guru got knocked. What? I don't know what this is about. Sounds crazy, man. Something about a gun. They got me handcuffed. I'm down in central booking. Things are fucked up the way my future's looking. But I'm too fly, I'ma change this scenario. Make some power moves and tighten up my bankroll. Chumps are leery though, they see me as a threat. I'm like the black Dutch Schultz when you get me upset. 5-0 makes me wanna flip, Larry Davis style. Got a nigga depressed while he's awaiting trial. It's okay though, cause from gray skies come blue. Through darkness comes light and I be known as the guru. And this I certify, we all should be alerted by the traps within the system. Our youth is getting murdered by the DA says they got me on a felony. I'm trying to live my life, so what the fuck is you telling me? The streets are war, that's what brothers carry weapons for. And I take the weight as I did before. The next thing you know, they got me on the radio. A rapper arrested, suckers showing me on video. Of course I know that I'm a role model. But yo, this rap life is real life, sometimes it's full throttle. Right now I gotta think about me, fuck the industry. You get no love, except those who support me. What's the story? What happened when I went to LA? Mixing shit up, no, not there, I got family. Nothing happened, mind your business, yo, Steph. You know we connect, JFK to LAX. They wanna lock us all up and throw away the key. Don't wanna see us come up, don't wanna see us making G's. Long as we know this is the key to our destruction, let's make moves, no discussion. Peace to my man Haas, an orange man paying the cost. All the 25 to life is all my brothers getting tossed into the system, supposed to rehabilitate. That's why you gotta regulate your own mind state. Read, study lessons and build your inner power. The next level doesn't tolerate cowards. For example, I know this rich Nigerian powerful American that's proud to be an African. He asked me, why do all us brothers be getting trapped? I told him I'd explain it, broke it down in a rap. Whether you got naps, braids, waves, or no hair, without esteem for yourself, nigga, you're going nowhere. And you can swagger like you're rude as Josie Wales. Unorganized revolt almost always mostly fails. Give up the savage ways, be effective soldiers. To elevate the mental is to be poor no more. There's war in the streets, prepared men know best. I rhyme as live as it gets, JFK to LAX. They're always making trouble, y'all, against the righteous. Killing us in cold blood, those beasts, those vipers. And as I sit feeling the pain in my wrist, I vow to myself that I'ma change this shit. Or at least I gotta try, or part of me will die. And only by action will any idea solidify. So I inhale, exhale as I ponder. This grown man will make mistakes no longer. I've been there, I've seen how they make us fall victim to their technology. With no apology, I diss them. And so I rip facts to dope tracks I caress. You're gonna hear about it from JFK to LAX. Yo, I'm focused, it's the locust. Old Trice is holding the soldiers, the prognosis. Probably why I rose from zero to hope. Cause I was wide-eyed and open-nosed on my approach. Nigga, hold the toast you provoke. 44 snub hugs, my scrotum when I roll. Yes, I hold my own. So if you think you're Debo's clone, I'm aiming. Watch him switch into Damon. And next Friday, I can bet you's a changed man. When them things in hand, it's not a game, man. I ghost ya. I bring you much closer to Jehovah. Definition of a soldier, I told ya. I hold the toast when I approach, it's close at all times. By my side in the holster, holster, roaster. Make me blow my composure, pop, it's all over. When the fofo blows and goes. When I'm up in the club and these niggas, they wanna act tough till they get plugged, watch them bullets go. Now you touch from a slug, hugging the streets like you in love. Your heart race like the ambulance arrive, they rush you to the spittle. Flying by my ride in July. Homie, you just died, your family through crime. I pulled off a crime just as quick as lose your face. In the fool's race, I pulled my tool first, nigga, you was in second place. The second place just means you didn't react with haste. And this differentiates life or murder being the case. Since this murder was the case, it just means niggas a race. Another black mother can't eat the food on a plate, cause she ain't got the taste as if raising you was a waste. Such a short span, young man, set it to wait. First I'm a man, second I'm 5'8". But size and weight won't give a nigga the upper hand. Cause when I pop, I get his up like Barry Sand. Sit in the can, he never ran like Barry Sand. Obi ain't playing, Obi got a plan. And a plan is not to be land in Earth's land. I will pop before decan in Earth's land. You get shot for playing me less than a man, motherfucker. When I'm up in the club and these niggas, they wanna act tough till they get plugged, watch them bullets go. Now you touch from a slug, hugging the streets like you in love. Your heart race like the ambulance arrive, they rush you to the spittle. Flying by my ride in July. Homie, you just died, your family through crying. I pulled off a almeno nel primo round di Bubu la costa, i 98.9 di Controradio rappresentano alla grande. Sì, sì. Perché nella playlist ho notato la presenza sia di Drums che di Jay Herrera, vero? Che di Herrera, sì. Herrera con produzioni nuove, nuovissime. Sì, Gran Fede ha fatto, è uscito un EP nuovo che lo potete scaricare in free download. Ora dal suo MySpace? No, dal blog, che è, se andate sul blog, che è misterherrera.blogspot.com. Cioè ora magari dopo si controlla un attimo per bene, non sono sicuro dell'indirizzo. Si okay, controlla faccio per un bene check al volo io su internet. Yes. Sì. Comunque o lo cercate su Facebook, fate una ricerca su Google DJ Herrera. Fate una ricerca su Google, è quello che faccio io adesso. DJ Herrera Blogspot, e trovate il blog suo. Senti, a proposito, voi siete stati a Pisa lo scorso weekend per la giornata del vinile, che sabato. Era sabato. Com'è andata? Bene, bene, sì, siamo stati in negozio San Antonio 42, negozio dei Dragoni, uno dei nostri negozi preferiti. Sì. Allora, Herrera on MySpace, myspace.com, Mr. Herrera. Invece vediamo se trovo anche il blogspot. Mr.herrera.blogspot.com. Perfetto. Bubo ha lasciato le consegne al buon Tommy, che è già pronto praticamente a partire. A meno che tu non ci abbia da dirci qualcosa. No, no, niente. Uscite discografiche della settimana, cose clamorose. No. Casomai ci penso, le dico dopo. Va bene, gli appuntamenti invece della settimana, anche quelli facciamo un attimo il punto della situazione. Il Biga nel frattempo è arrivato, quindi insomma toccherà anche a lui fra poco. Venti minuti i prossimi, tutti di Tommy. Going to think for yourself, 'cause I won't be there with you. So vicious. When I stand next to your fire. Hey, let me stand next to your fire. Stand next to your fire. A big sound, I play a big tune. Generation, this is my generation. No, dico, c'è il Boom Eater che è andato, eh. Ma generation. Sembravi un po' Aquila ai tempi d'oro, Tommy, non vecchio, volevo ho tirato fuori il cane che c'è in me. in tutti i sensi, eh. Dal rap sapido di Bubu al rock peso, sì, di stasera Tommy. Mi sono tolto il sassolino dalla scarpa, no? Era una cosa che pensavi da tempo. La volevo fare da un pezzetto, eh. Allora, io qualcosa me la sono ricordata di quanto avviene a Firenze in città questa settimana. Bravo. Giovedì. Allora, io suono nello spazio 27 giorni che si trova in via dell'Oriolo dalle 6 alle 11 di sera per praticamente accompagnare la pittura live di Massimo Pasca e che è Papa Massi. Papa Massi, sì. Poi invece la stessa sera i nostri amici di Numa Crew ospitano al Doom i Lion Dub, che sono una crew di New York che suona drum and bass e dubstep. Molto reggae oriented comunque. Tu suoni da qualche parte, vecchio? Al Monte Carlo giovedì? Sempre giovedì? Sì, sa, è così. Oppure andate a sentire il Biga con Guerra? Con Drago e Funks, sono gli altri due amichetti del ritmo che ci ascoltano da Pisa. Quindi giovedì notte scegliete voi, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Fate Vobis. Prima McDonald's. Ma smettila. Oh yeah, è arrivato anche Franch nello studio 1 di Contro Radio. Yeah. Storia di festini stasera, headbanging. Ma il nostro amico a New York è arrivato. Stasera ci arrestano tutti, ragazzi. Super. È la volta buona. C'è due che riparano la batteria di una macchina qua. Comunque l'amico che doveva andare a New York è arrivato sano e salvo e cercava un posto per mangiare un hamburger. Gli ho detto, vecchio, cioè, se non trovi un hamburger a New York c'ho dei problemi seri. Non è che stava cercando il Lampredotto perché era in crisi di astinenza. Quello può essere un attimino forse più complicato. Forse voleva importare. Ah, ok. Sta pensando di metter su un Food Junkie al Lampredotto a Tribeca, tipo. Vecchio, Food Junkie al Lampredotto, no, cioè questa è un'offesa che non ti passerò liscia. Se mi sentono i toscani soprattutto è un guaio, lo sai. Duccio dice basta. Ha ragione, no? Com'era Portobello ha detto stop. Perché comincia lui i prossimi 20 minuti. Sono tutti suoi, buon ascolto. Motor car, the little that you know. A big song, I play a big tune. Get it wrong and still you think that it's alright. touch. Standing in the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. Standing in the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, you're gonna crucify me. Bitch. Dico, un attimo di quiete in tutta la balda. Era partita un po' troppa sciambola lì dentro. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che abbiamo una certa età. Stavo per partire poco, perché stavo meglio calmonato. Ho visto dei passi di danza di Biga che veramente sarebbero stati da pubblicare su YouTube. A proposito di Biga e a proposito di quello che vi dicevamo lo scorso weekend, giornata mondiale dei negozi di vinile, c'è una cosa importante della quale vi dobbiamo parlare. Anzi... ci devi parlare tu, l'appunto le caro mio, ce l'ho io l'appuntino per tutti i feticisti del vinile, quelli proprio, cioè, che stanno a ruota persa per i dischi. Il buon Biga ha diversa roba in vendita, a parte che era anche ieri, era domenica ieri, e sabato, sabato anche, e domenica, esatto, sì. Già era a Firenze a vendere un po' di roba. Ha improvvisato un mercatino. Qualcuno è passato, altri se lo sono perso. Insomma, è andato così. Per Baffetto quelli... si ha è passato a comprare qualcosa. E Biga, il Baffetto si ha è passato, no? Vi do un paio di contatti. Se qualcuno lo vuol contattare, c'ha un sacco di roba: Brasile, salsa, funk, roba soul, turca. Jazz. Roba turca non lo so, vecchio. Ancora non la vende. Tutto il resto di sicuro sì, perché l'ho visto, quindi sono sicuro. Allora, il contatto è botanicarecords@gmail.com per le mail, altrimenti su Facebook cercate Botanica Records tutto attaccato, e lo trovate. Trovate anche il fantastico logo che Mathieu ha disegnato per Botanica, esatto, Records, eh? Mica cazzi. Precisi precisi, perché sono le 22 passate da 6 minuti. Puntuali come non mai, arriviamo alla chiusura del GR delle 22:30 con il DJ set di Biga. One. switch it around and put the thing in gear. Oh, yeah. Not much is for sure, but this is true. Oh, yeah. I gotta do it for me, but then I'll do it for you. Major attraction, trouble distraction. Scramble up my name and it still come action. Music's odd number, doubt is who slumber. Open up your ears to the low ten of thunder. Create a Queens native, mix is automated. Want some fresh shit, then record related. Buster is ferocious, I'm flawed and precocious. Hearing fools out cause my willy bodocious. Peoples don't blame me, shorties can't game me. Country Cherokee, but the city here made me. Rock like coral, distinctive on my orals. Got a little crime and got a lot of laurels. The rhythm stay banging, my 1-2 thinging is exemplified by the comp left hanging. Percussions are weapons, drums are Smith & Wessons. Lyrics popping off, leaving deep impressions. Let's bring it back. Corny rap style niggas, they lack the pedigree. The waters they be in when they just the manatee. Me, I'm unaffected, the whale, the hammerhead. The magnanimous decision, unanimous, I am fed. What you looking at? Wait, I can help you with that. The formidable, unforgettable, painting abstract. In the wall amongst them all, from Warhol to Jean-Michel. A commodity, her property, here's the morning bell. Guantanamo, baying niggas, deferring routes. Your soliloquies are trash, inferring that you got clout. Come on me, what's that about? You should revisit your scheme. Before the scheme that seems real, reverts back to a dream. Into that P head of yours, you ain't commanding no tours. You seeing fee and per diem, we seeing that in the door. Trust a little bit more because she choosing the prettiest. The wildest, wittiest, on the low, we the grittiest. Taking the task, these barbaric insurgents who nursery rhyme niggas and play like they crime figures. And who could give you such a naive belief? There's examples all around of careers being briefed. The Luke Cage of the loose leaf page, running high, coming out in the yard, bonafide to be hard. Production is a funk press combination, spontaneo 2009, 2010, 2011, la conosco un po' più per la yeah, and funk funky press, baby, what lo sai? 1-2-1-2, we on the mic. Spontaneo. Yes, DJ Alik. Suona. Yeah, yeah, yo. Spontaneo, lo sai. E lo sai. E lo sai che non si ferma mai. Yes, yo. Spontaneo, suona libero. Fuori da dove conta solo il grano. Ma anche qui contiamo il grano. Non puoi speculare sul mio rap spettacolare. Money, money. Qui c'ho i testimoni oculari. In più di un focolare ho la diavolina. Ho una buona reputazione. Ho un nome popolare. Zero naftalina. Non è la cop, è un free download. È il nostro frutto spontaneo, mediterraneo. Senza che andiamo lontano. Ti portiamo un suono sano e vivo come l'ulivo italiano. Dal vivo ci siamo e scansiamo equivoci sound. Qui si evoca il bene e a chi non ci tiene si revoca il mic. Requisizione, non è l'inquisizione. Freestyle, non ne sai, non c'hai la canzone. Permetti, ma che esibizione. Tizio, io c'ho la multivisione che salva tutte ste persone dal precipizio. Scegli l'altro, yeah. E lo sai come cazzo va, siamo sempre i soliti. Ci trovi sui muri, sui dischi, sui piatti. Ho letto, ma il suono dei miei passi risuona sul marmo. È freddo come il vento alla fine dell'anno. Mentre ti parlo le mie lettere viaggiano sul metallo. E le tue le spedisci alla stessa etichetta ogni anno. Spengo lo spliff e la mia testa vaga. Cicci, quando combatti un'intifada con le tue narici. Pippi, ragli, sniffi, B. Il fatto è che il cervello tuo non lo ripristini più. È per questo che se scrivo la mente alterata ti trovi freddo incubi a bocca serrata. L'ipocrisia non c'ha faccia ma c'ha la facciata. Io c'ho la faccia da culo per proseguire sta strada. LRG, hashish, rilasso, mi calmo subito. E che cazzo fa silenzio, che abbiamo tutti già parlato troppo. E prima penso poi sto zitto, pure penso e poi mi scordo. Ma mi ricordo il tuo nome, quello che predicavi. La gente fa così ma poi ti frega come i ladri. Se prima ti fidavi, hai fatto male nanni. Facciamo male tutti, so che ci riesco a farci. Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me. Il tempo che riempie il vuoto, come lo shot dopo il gotto. Vuoto, come il cranio di un poliziotto. Beccati sto spazio metrico riempito con lessico. Beccami il mio stato simbolo in uno stato pessimo. La vita è in cesso, mm-hmm. Il tempo è perso, mm-hmm. Più che cerco più ne sto dentro. Cerca tu come sto messo. Male, mm-hmm. E forse anche tu ti sei sentito così. Schiacciato da una morsa micidiale. C'hai lo scitto? No, son vuoto. Come hai detto? Vuoto. Del tipo un'ora fa ho finito un app. Perfetto, hai detto giusto. Sto crescendo fatto e non mi sono affatto fatto un progetto giusto. È che attorno a me se questo vuoto fisso a diritto. Schiaccio sto pedale a roto, Cristo. Hai visto un altro king che se n'è andato. Capita, è già capitato ma non mi sembra che qualcosa sia cambiato. E c'hai ragione, ce l'ho sempre avuta. Fatto salvo ogni occasione in cui non ci avevo sale in zucca. Sto via. You're rocking with the Rebel for the Grain at the moment. Giving mad love to my man, Mr. Herrera. Thank you. Concretion Discotheque. Yes, with a brand of full running now. Hear that? Yeah. Now I'm come to the part two sound to the man like every come for bounce and go down. Well, where we know you have to get the crown. Beat! Rock! Sega! Watch it! Water, new name, same nigga, F nigga. Steady spittin' phlegm on them who can't figure. Trust me, ain't the look, Sister Lucci. Believe me, keep them fondling they coochie. Every time they see me, I sip penny, so I piss any. With the coke back and lemon twist, ambidextrous. When it comes to ice on my wrist, diamonds, I like them. Rings platinum, cousin been had them. So bring your whole crew style, be no afraid of them. Hug leggy at chuck, we no one, none of them. Bring your whole crew style, be no afraid of them. Hug leggy at chuck, we no one, none of them. Hear me, Fred? Yeah. Them, boy, girl. Them come tell you how they yell them on. Every DP, truck and Beanie Man. Three of them together come from Holy Station. Roll up town. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like he just came out of the basement. You know what I'm saying? Thank you, big country calls now. All right, let's bring to the stage. Yeah. Your Highness, live from the bricks, 1-6. Peek, wop, bang your head, break the drumsticks. Verbal assault, rhymes ripple through the mix. Specialist with the smash hits, catch your flicks. Savagely attack this, blast with accurate aim. Spark the flame, burn this and pop a vein. Ride tracks like a soul train, hold your brain. In the state of shock, make them drop, it's a cold game. I bang with the big boys, those who hold names. Amateurs get hung with their own gold chains. I swing blades, best bring grenades and kids. A true master, way beyond your freshman attempt. Spin rounds on the floor, evidence of the war. It's on till the death, till we settle the score. You can never measure to the standard of the most popular demanded rap classic. Pop corks while the sound knock your socks off. Ghetto summer jam, got the street blocked off. Plus I knock me off, you stop short. All with my thoughts, move the world with an unknown force. We had the bass pound speakers, shell toe Adidas. Original rap with new school leaders. Graffiti art came from fat gold chains. Shot the world cause it was hip hop from the Hey, yo, it's such a shame all these dick riders trying to corrupt the game. But what it bring? Nothing but pain and one in your fucking brain. Ain't nothing changed since the album. I'm still wildin', I'm still violent. I've been waiting for this moment like Phil Collins. For all my life, I've been strife for the strife. Hyper than hype, inviting the finest night. Tonight is the night, and I ain't even trying to let a nigga slide. I've been dying to get a guy to dare to try, and I've been prepared to die. I rush your crib like a Jehovah's Witness. Load up and expose your infant, hold up. Did you notice my heroic interest? I'm so relentless in this field of rap. Everything is real. Fact, fully back, my bullies will be peeling caps. And I see you running back down, ready to invest. What the sound of the band they call Peace Rock? My method, man. Thumb heads. What? Cherry heads. What? Apple heads. Mixed cow. What? What? What? Now we boot. What? Huh? Yeah. Hit it off, Nori. P.R. Like this, take y'all. Take it to the bridge. Yo. What? Float on this magnificent track. Wise, intelligent. All-star American. Yes, the rap bet. Reinforce your threat. Who got the money to bet? Against the number one, holding down the position. Crush the competition with the limited edition. Heavy caliber rhyme, shooting down your peace sign. The war's on for real. Run, grab your shield, yo, meth. Take the steel and let these cats know the deal. Style blazing, iron lung on this collaboration. Money for the taking, I ain't sweating confrontation. With P.R.A., we be the men's of tomorrow. Masked up, licensed to kill. Bringing the horror to your house like Amityville. Keeping it molding real, niggas ain't supposed to feel. The resume gives a fuck what niggas say. Tim boots to pave the way. Here I come to save the day. Yeah, stop the fucking prep. Transform the Mr. Map. See that logo on my chest? Save a damsel in distress. Hot shit in the song. Gotta get until it's gone. Kids wanna get it on. Get smacked up and shit upon. Ride till you prove me wrong. Think you can do me, huh? Can't we all just get along in this modern Babylon? Dueling with my nemesis. Laying down laws. Don't start if you can't finish it. I'm telling you, Paul. Got the power of a media shower. Coming down on all you cowards. Tricking your funds and sniffing powders. Here we come. Straight from the slums, dynamic duo, son, Ghost Rider, Jonathan, and Soul Brother number one. Sending this one out to my man, Met the Gap, Pete Rock, half man, half amazing, Bridging hard, big up for you. You know what I'm saying? Sending this one out to my man, Met the Gap, Pete Rock, half man, half amazing, Bridging hard, big up for you. You know what I'm saying? Leaping tall, boom. Thank you. and warm weather places. Dedicated to the brothers that never made it. Cut short in their prime, read light between the lines. Photographed by rhymes, yo, it's hard times. All across the nation, cold points of frustration. Created hot joints of illustration. Concentrate, stakes are high. Falling victim to the lie, keep a sharp eye. There's a steady supply of hate in the air. To them cats who stare at an ice grill with the glare. But everything's fair in the city. The shiesty, the shifty, cause I'm the epitome. Word up. Of a raw deal now, carry a sword and shield, and walk with a force field. For real, I overcame the odds and got the hell out of Dodge. Warm and warm. It's my word. The official adventures of. I own approximately everything you got, verdict. Champion guest down, want a chest down, so let's grab it.